La triste vicenda del bambino napoletano che gioca bene a pallone è ormai assorbita dalla nostra onnivora e spugnosa memoria sociale. A 10 anni, percepito, categorizzato, deportato lussuosamente a Torino con famiglia a carico, in pratica datore di lavoro del padre, un'agenda zeppa di appuntamenti con lo spettacolo della vita. Domenica in, Porta a Porta da Bruno Vespa, fotografia in posa con il presidente, le interviste, le smentite delle interviste, qualche seduta con lo psicologo e con il tecnico delle comunicazioni perché sia spontaneo e rimanga tanto bambino per la quiete della coscienza di tutti. A 10 anni gioca a pallone e probabilmente gli piace. A 15 potrebbe volersi innamorare e probabilmente non potrà. A 20 potrebbe voler partire per la guerra di Spagna, non so, probabilmente non potrà. A 25 potrebbe volere un posto anonimo nella folla solitaria e probabilmente non potrà. Con il consenso entusiastico dei genitori è finito in una macchina del tempo e dello spazio che o lo ridurrà calciatore o lo farà a pezzetti. Mozart, che scrive le sue prime composizioni, che va in tournée a 6 anni, o Einstein, che a 10 anni legge Forza e materia di Buchner e La critica della ragion pura di Kant, non sono state vittime di minore violenza. È il plauso successivamente tributato loro che spesso ce la fa dimenticare. Ci sono genitori che per distrazione o per supposta necessità, che sono sempre comunque il risultato di un calcolo di qualcuno, investono sui propri figli scambiandoli per giocattoli giapponesi. La cronaca tace di principio sui fallimenti e rigira la forchetta nella piaga dei successi. Così in settimana è stata la volta di Richard Anderson, operatore di Wall Street, tanto genio della borsa da essere chiamato a rendere una testimonianza davanti al Congresso americano riunito. Per una sorta di legge del contrappasso economico-finanziario ha parlato del problema della riforma del sistema pensionistico, suggerendo altresì le sue soluzioni. Richard ha 6 anni e a quanto riferisce la sua bella e prontamente scodellata leggenda, ha contratto la borsite acuta perché il babbo, dovendolo punire per le marachelle, già a 3 anni gli cambiava canale, listini al posto dei cartoni animati. La fotografia lo ritrae in camicia bianca, cravatta e giacca a doppio petto, rappresentando cioè la fame di un capitalismo che, dopo aver divorato l'intera geografia degli uomini, ha finalmente azzannato anche la loro storia biologica. Lo speculatore bambino è la prova evidente dell'innocenza tanto sbandierata in questi nostri gravi giorni di chi, in nome della libertà, azzera le poche risorse di qualcuno per moltiplicare le molte di qualcun altro. Anche Johannes Kepler, più noto a noi come Keplero, il matematico, astronomo e astrologo che, recuperando alcuni principi pitagorici, scrisse quel Mysterium Cosmographicum con cui rappresentò la propria concezione del sistema del mondo, anche Keplero fu indotto alla lettura di tutte le sacre scritture, tutte, a soli 10 anni. Ne ottenne malattie psicosomatiche a iosa vita natural durante. Francis Bacon, più noto a noi come Bacone, invece altro genio precoce, venne iscritto all'Università di Cambridge a soli 12 anni. Divenne prima Lord Guardasigilli e poi Lord Cancelliere. E infine divenne accusato di corruzione, giustamente condannato perché truccava i processi in cambio di vil denaro. Nel quadro patologico a suo carico andrebbero anche annoverate le sue visioni utopiche, raccontate nella Nuova Atlantide. In Nuova Atlantide, in cui straparla di un popolo che vive in perfetta armonia, estraneo ad ogni forma di delinquenza e di illiceità, nonché, ma guarda un po', rigorosamente dedito alla castità. Insomma, trovarne uno di questi che non abbiano sofferto o fatto soffrire non è facile. Nessuno può dire lasciate che i pargoli vengano a me e garantire che sta facendo qualcosa di buono per loro.